sto tornando dalla riunione plenaria di Indy Media che c'è stata a Genova, al laboratorio Burida, dove ovviamente si è parlato anche di questo. E diciamo che le notizie che abbiamo ultime sono pressoché quasi niente, ovvero quelle che si possono vedere sul sito stesso Indy Media, perché non ci vengono date informazioni da nessuno dei soggetti coinvolti, il che ci lascia anche presupporre che forse non esiste questa fantomatica rogatoria internazionale, ma ci si sia mossi, cioè insomma l'FBI si sia mossa dietro, insomma, così per fare favori, come già era accaduto al tempo della richiesta della rimozione delle foto dei poliziotti svizzeri. Guarda, a rischio di sembrare dietrologico ti posso dire che potrebbe anche essere, nel senso che non era un segreto il fatto che comunque sulla macchina vi fosse tutta la resocontazione del lavoro che sta svolgendo il gruppo della segreteria legale su Genova. C'era tutta la pagina dove si potevano prendere informazioni, c'erano tutti i materiali degli avvocati, quindi non è che nessuno lo sapeva. Potrebbe anche esserci di mezzo questa cosa. E la contromossa ovviamente è stata quella di mettere di nuovo sul sito quanto prima, e siamo usciti con un comunicato stampa dove invitiamo ciascuna realtà di quelle che ci hanno dato la solidarietà, che sono veramente molte, a muoversi secondo i propri metodi e le proprie scelte per darci solidarietà attiva, anche se comunque, come ti dicevo prima, nessuno dà conferme di alcun tipo e ci si può basare solo su voci, quindi ovviamente muoversi su delle voci non ha alcun senso. Noi invece vogliamo aspettare di avere maggiori informazioni per lanciare una nostra campagna più precisa con degli obiettivi più precisi.